gode, ömer ciume di questo corteggiamento funebre. Oh. Il profumo sinistro degli angeli più alti sa oltraggiare questo silenzio irrespirabile. Il profumo sinistro degli angeli.